questa è una canzone che parla di? Del Cile. Il Cile, come sapete, è una nazione che è su tre continenti, perché c'ha l'isola di Pasqua, che è Oceania, il Cile, che è Sud America, però poi è una parte che è in Polo Sud. Questo pezzo parla di questa cosa. Viva Cile, mierda! Hai visto? Poi abbiamo uno preparatissimo su Sud America. Eva! Vero maestro? Penso dedicato a Charles Darwin, Ecuador. Quindi potete spogliarvi tutti. Thank you. Allora. Francesa. È una cannuccia, sì. C'è. C'è un pezzo sul Paraguay. È un pezzo, diciamo che un paese un po' sottovalutato da voi, al solito. È un pezzo che in realtà è una cover di Gal Costa. stravolta. Di un pezzo che si chiama India di Gal Costa, però a un certo punto dice Paraguay. Uguale, eh? Qui si piange. Una rovesciata per favore. Grazie. Ok, facciamo un brano che è quello che aspettavate tutti, che è il Suriname, tutti chiedevano. Ma il Suriname quando arriva? C'è Perù e lei arriva subito dopo questo pezzo. Perché mi stiamo facendo in ordine alfabetico, come i più attenti fra di voi avranno notato. E quindi dopo Paraguay viene Perù. Ok, un pezzo dedicato a Piero Perù. Thank you. Perù, sì, in effetti non è venuto molto. Va bene, andiamo con Serena. Okay. Ora te se fa la dono Suriname, ora te se fa la dono Suriname, ora te se fa la dono Suriname, pensa io. Special guest Elisa Tron e la Coltelli, ragazzi, cioè sti cazzi. Barros. O te ha conosco, è un barocco, è stato come un disponimento, la minaccia della spagnola, ma sono tutti sti dominanti. Venezuela! Special guest pomanesche, soprattutto qui questa qua che arriva dalla Francia. Oh, aspetto fuori. Grazie, grazie. Facciamo il nostro grande successo. È il finale di questo concerto, ma anche il finale di questa band. È il momento degli addii, mi dispiace, solo le cose belle finiscono, ricordate, la felicità ha una fine, la tristezza no, quindi con questo motto noi vogliamo salutarvi nel nostro più grande successo che si chiama Grande Successo. Lo suoniamo due volte in due versioni differenti, una al clavicembalo e una prima rock e poi al clavicembalo. Back. Ok, con il maestro Matteo Pennesi. È l'ultima gioia che ci concediamo. Yeah. esatto. Thank you. Adeus, Arabia Saudade.